In questo venerdì 27 gennaio i titoli di apertura sono molto dedicati al decreto che oggi verrà approvato in Consiglio dei Ministri per semplificare la burocrazia. Famiglie e imprese, addio a 330 leggi, così titola il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, così cambia il valore della laurea. Repubblica, la rivoluzione dei certificati, il Messaggero, certificati, cambia tutto. Mentre La Stampa titola su Europa, il piano per i giovani. Per Libero invece, addio PDL, Cavaliere, torni a bordo. No, l'invito è diventato ormai celebre. Per Il Fatto Quotidiano, furti, truffe, veleni, scandalo in Vaticano. Riprende la lettera e poi trasmissione sulla 7 fatta su questa vicenda. Questi alcuni dei titoli di apertura. Il Manifesto invece apre sulle arresti ai Notav, sovversivi, e c'è una foto di due pacifici Notav con delle mucche sullo sfondo. Ovviamente l'ironia del Manifesto è nei confronti di questa retata. Io voglio partire come segnalazione. Oggi è il giorno della memoria, lo sapete, si ricordano i 6 milioni circa di vittime della tragedia della Shoah. C'è l'Unità che apre su questo. Noi non dimentichiamo, questo è il titolo di apertura dell'Unità. C'è un intervento del ministro all'istruzione Profumo, ci sono varie pagine su vari giornali, commenti, ma io voglio citare la prima pagina del Giornale con il titolo di apertura. Il Giornale fa una provocazione clamorosa. Questo è il titolo: lettera ai tedeschi, a noi Schettino, a voi Auschwitz. Questo è il titolo di prima pagina con l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, che prende spunto dall'articolo diventato celebre di Der Spiegel, che ha detto in pratica gli italiani sono tutti un po' Schettino, no? Italiani che fuggono, questo articolo di Jan Fleischauer che ha fatto discutere. E allora Alessandro Sallusti, sentite che editoriale di prima pagina fa. Ebbene, ci hanno detto che gli italiani sono codardi, secondo Der Spiegel, siamo un popolo di Schettino. Beh, che i tedeschi siano invece una razza superiore lo abbiamo già letto nei discorsi di Hitler. Ricordarlo proprio oggi, giorno della memoria dell'Olocausto, quantomeno è di cattivo gusto. È vero, noi italiani alla Schettino abbiamo sulla coscienza una trentina di passeggeri sulla nave, quelli della razza di Jan Fleischauer, autore dell'articolo, di passeggeri ne hanno ammazzati 6 milioni. Erano gli ebrei trasportati via treno fino ai campi di sterminio e nessuno della razza superiore tedesca ha tentato di salvarne uno, a differenza nostra, che di passeggeri ne abbiamo salvati 4.200 e di ebrei all'epoca delle sciagurate leggi razziali con centinaia di migliaia. Era italiano Giorgio Perlasca, fascista convinto, che rischiò la vita per salvare da solo oltre 5.000 ebrei. È vero, noi italiani siamo fatti un po' così, propensi a non rispettare le leggi, sia quelle della navigazione che quelle razziali. I tedeschi invece sono più bravi. Li abbiamo visti all'opera nelle nostre città, obbedire agli ordini di sparare su donne e bambini, spesso alla schiena. Per la loro bravura e superiorità hanno fatto scoppiare due guerre mondiali che per due volte hanno distrutto l'Europa. Fanno i gradassi, ma hanno finito di pagare anche all'Italia, solo un anno fa, il risarcimento dei danni provocati dal primo conflitto. Questi tedeschi sono ancora oggi arroganti e pericolosi per l'Europa. Se Dio vuole non tuonano più i cannoni, ma l'arma della moneta non è meno pericolosa. Per questo non dobbiamo vergognarci. Noi avremo pure uno Schettino, ma a loro Auschwitz non gliela toglierà mai nessuno. Insomma, avete capito? Questo l'editoriale durissimo e anche la provocazione proprio nel giorno della memoria, col titolo di prima pagina del Giornale: a noi Schettino, a voi Auschwitz. Il settimanale Der Spiegel ci definisce un popolo di codardi perché gli italiani non sono una razza. Loro sì invece, e lo hanno dimostrato assieme a Hitler. Vabbè, ce n'è per iniziare con un menù intenso. Poi che dire, visto che si è citato per altri motivi Schettino, voglio citarvi questa, a me ha fatto un po' di tenerezza. Oggi trovate su tutti i giornali la vicenda di Don Massimo Donghi, parroco di Besate Brianza, in provincia di Monza. Ha detto che ha preso delle vacanze, ha detto ai suoi parrocchiani vado a fare un ritiro spirituale, era a bordo della nave Concordia. Fa tenerezza perché vado in ritiro spirituale, ma era in crociera, c'era anche la nipote che ha tradito tutti mettendo su Facebook la seguente frase: grazie a Dio lo zio Don Massimo si è salvato con la prima scialuppa. Ah, come con la prima scialuppa? E allora si è scoperto che era a bordo della nave Concordia e non a fare ritiri spirituali. Libero attacca il prete che faceva la morale al cavaliere. Hanno ritirato fuori una vecchia lettera pubblicata su Famiglia Cristiana in cui Don Massimo Donghi era indignato per i comportamenti di chi democraticamente ci governa e ci rappresenta, con una costante doppiezza tra vita pubblica e privata, tra impegni istituzionali e vizi domestici. Libero dice: eccolo qui. E lui, che doveva andare a fare il ritiro spirituale, era a bordo della Concordia. Questo mi dà lo spunto per leggere il buongiorno di Massimo Gramellini oggi, dal titolo Ius Prime Navis. Una bella notizia, finalmente, ne sono debitore al nostro inviato Algilio Chiarelli. Temevo che il plastico della Concordia, che da giorni bordeggia porta a porta, fosse un falso, ispirato al modellino della vasca da bagno di Cogne. Avevo letto che il plastico originale, rigorosamente in scala, era sull'isola, nel centro operativo dei Vigili del Fuoco, per dare informazioni logistiche ai sommozzatori. Possibile che privilegino l'opera di salvataggio alle esigenze televisive? Mi ero chiesto con stupore. Infatti non era possibile. Gli armatori hanno concesso il plastico della Concordia a Vespa e ai Vigili del Fuoco hanno rifilato quello della nave gemella, la Serena. Tanto si sono detti: per i sommozzatori non cambia niente, mentre cambia moltissimo per la TV, perché solo uno dei due modellini campeggia su uno dei due il nome sinonimo di audience, Concordia. I sommozzatori, gente rude all'antica, non l'hanno presa benissimo. Pare siano ancora fissati con la teoria secondo cui la realtà viene prima della finzione e salvare le persone resta più importante che intervistarle in TV. Ma sono rimasti gli unici a pensarla così. Perfino la Protezione Civile non ha avuto nulla da obiettare sul fatto che a Vespa spettasse lo Ius Prime Navis. A proposito, il parroco di Besana Brianza aveva raccontato ai fedeli che sarebbe andato in ritiro spirituale per una settimana. Invece sapete dov'era? In crociera, sulla Concordia. Quella nave tragicomica, che non può risollevarsi né affondare, sta diventando ogni giorno di più l'autobiografia della nazione. Così Massimo Gramellini oggi in prima pagina della Stampa. Beh, ho visto, stanno arrivando tanti messaggi al 349-238-6666 sulla scelta dell'apertura del giornale. Beh, davvero oggi molto molto forte, no? Questa scelta del giornale, la lettera ai tedeschi: a noi Schettino, a voi Auschwitz. Come tutte le scelte forti, c'è chi la critica duramente, c'è chi invece la elogia. E vabbè, è una scelta editoriale certamente coraggiosa quella che oggi fa Alessandro Sallusti sul giornale, molto molto duro, proprio nel giorno della memoria, tra l'altro. Allora, molti quotidiani aprono sul tema principale del Consiglio dei Ministri di oggi. Arriverà e approderà questo decreto sulla sburocratizzazione, un decreto i cui dettagli sono tutti spiegati sul Sole 24 Ore con molta precisione, a pagina 9 e 10. Semplificazione, burocrazia, crescita zero, meno oneri per le piccole e medie imprese, ma soprattutto che cosa cambierà in questo decreto che cancellerà 330 leggi. Online e tempo reale, queste sono le parole d'ordine, scrive Eugenio Bruno sul Sole, del decreto sulla semplificazione e lo sviluppo. L'artefice numero uno è il ministro della pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi. Per fare qualche esempio, i cambiamenti di residenza avranno effetto nel momento stesso in cui verranno comunicate al nuovo comune. Le trascrizioni degli atti di nascita e matrimonio potranno essere trasmesse via web. Non si sa ancora che cosa succederà sul valore legale della laurea. Questo è il dilemma, il punto di domanda che verrà forse trattato oggi direttamente in consiglio, dove è attesa appunto la norma che potrebbe ridurre il peso dei punteggi di laurea in alcuni concorsi pubblici, ma questo nodo verrà sciolto solo in Consiglio dei Ministri. In ogni caso, nel complesso saranno 8 articoli dedicati alla semplificazione per i cittadini, appunto sui certificati di residenza, come detto saranno operativi appena comunicato il cambio al nuovo municipio, oppure La rete costituirà il fulcro di una nuova disposizione, l'articolo 6, che obbliga le amministrazioni pubbliche a scambiarsi online in loro possesso tutti i documenti. Dunque, per esempio, la trascrizione degli atti di nascita e matrimonio di fatto avverranno con effetto immediato, senza aspettare più che l'ufficio A trasmetta a quello B tutto l'incartamento. Oppure l'idea è quella di far coincidere la scadenza delle carte d'identità nel giorno del vostro compleanno, cari ascoltatori, così ve lo ricordate invece di andare a controllare e poi dire «Ah, mi è scaduto il documento». Fare queste norme, insomma, per semplificare. E ci sono norme anche per la semplificazione per quel che riguarda le imprese, Davide Colombo ne parla a pagina 11, ma insomma tutti i giornali aprono su questo importante tema. Per esempio il Corriere mette anche in questo provvedimento questa novità: attenzione, i contribuenti che hanno debiti fiscali di modestissima entità e magari noie procedurali enormi per assolverli possono tirare un sospiro di sollievo, perché con il decreto di oggi il governo dovrebbe raddoppiare il limite al di sotto del quale l'amministrazione non darà corso alla riscossione dei crediti dovuti allo Stato o agli enti locali. Questo limite, che era di 16 euro, verrà portato a 30 euro. Dunque, i mini debiti col fisco fino a 30 euro verranno cancellati. L'amministrazione pubblica non verrà più a chiederveli, lo Stato non verrà più a chiederveli, perché è più il costo delle operazioni di riscossione, che magari non vanno neanche a buon fine, dell'entità della multa che dovreste pagare. Dunque verranno cancellati i mini debiti col fisco fino a 30 euro. Cos'è, un condono? Bah, no, non lo so, questo forse è una norma di buon senso. In ogni caso, sta di fatto che questo è proprio nel giorno in cui purtroppo anche l'Eurispes certifica, Repubblica vi dedica una pagina, pagina 4, La Stampa pagina 9, il divario salari-prezzi è al record dal 1995, le retribuzioni in Italia sono ai minimi da 12 anni, salari che crescono poco, scrive Valentina Conte su Repubblica, prezzi che crescono troppo. Ecco il vero spread che si allarga fino ad arrivare ai livelli degli anni 90, quando c'era la lira e l'Italia rischiava il default. I conti erano disastrati e le manovre lacrime e sangue. Buste paga è sempre più povere, inflazione galoppante ci riportano indietro di tre lustri. Questo diffuso dai dati dell'Istat. Nel mese di dicembre le retribuzioni ferme rispetto a novembre salgono solo dell'1,4% rispetto allo stesso mese del 2010, più che doppiati invece i prezzi, più 3,3%, è la distanza maggiore dall'agosto del 1995. Insomma, una situazione difficile. Tanto che oggi il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che è a Davos al World Economic Forum, fa due interviste, sono due interviste che appaiono su Repubblica pagina 7 e su La Stampa a pagina 5 per parlare della situazione di crisi. Intanto Marcegaglia dice c'è Monti ha uno standing internazionale molto forte, le persone che ho incontrato qui a Davos dicono di avere fiducia, è un cambio importante, c'è proprio più fiducia, lo spread scende, i tassi dei titoli decennali anche. Riguardo poi l'intervista verte soprattutto alla riforma del mercato del lavoro, il presidente Napolitano ha auspicato che il posto di lavoro non sia un privilegio. Dico che ha ragione, risponde la presidente di Confindustria, ma il lavoro si crea con la crescita, altrimenti le imprese non assumono. E riguardo all'articolo 18 bisogna discuterne senza tabù e bisogna ricordare che questa norma riguarda il 60% degli occupati. Per l'altro 40% già non esiste, visto che le piccole aziende non la applicano. E poi sulla cassa integrazione non ci ha chiesto questo una controproposta il ministro Fornero o il premier Monti, ma comunque noi siamo aperti all'idea di creare una nuova architettura del lavoro e degli ammortizzatori sociali. I sindacati invece mi paiono un po' chiusi. In ogni caso ci incontreremo con loro. Mentre il titolo dell'intervista sulla Stampa è «Serve una straordinaria vendita di asset pubblici», l'invito del presidente di Confindustria è di tagliare soprattutto nello Stato. dico dove non tagliare, non dove non bisogna tagliare, dove bisognerebbe investire di più, in primo luogo sulla ricerca e l'innovazione, mentre invece si potrebbe tagliare su tutta la parte del funzionamento della macchina statale, dove si può fare molto. Non voglio fare demagogia sugli enti inutili, dice Marcegaglia, ma certo ci sono troppi livelli decisionali. Solo gli acquisti intermedi della pubblica amministrazione ammontano a 117 miliardi di euro l'anno. Insomma, questo è lo scenario, diciamo, economico. Dunque vedremo oggi questo provvedimento in Consiglio dei Ministri, mentre la politica un po' si azzuffa, e soprattutto nel centrodestra. Volano gli stracci, o bisognerebbe dire le calze o le mezze calzette, perché questo mezza calzetta è l'appellativo che Bossi ha rifilato a Berlusconi. Il tema è sempre quello. Bossi dice Berlusconi ha paura, Berlusconi deve far cadere Monti, altrimenti noi facciamo cadere Formigoni in Lombardia, Berlusconi ha paura. È una mezza cartuccia o una mezza calzetta, questo ha detto. E il titolo della Padania è questo: il paese vorrebbe strozzare Monti. Ecco, questo ha detto Bossi. La pensate così, cari ascoltatori? Siete in fila per strozzare Monti? Andate tutti a Palazzo Chigi. Sta di fatto che da una parte potrebbe sembrare inspiegabile il fatto che invece Berlusconi dica con molto pragmatismo: no, non ci sono motivi per fare cadere il governo Monti. Beh, fa specie, no? Vedere un Bossi che dice basta, fallo cadere, e Berlusconi che dice non ci sono motivi per criticare questo governo. Tanto che oggi Libero in prima pagina titola polemicamente così: addio PDL, l'articolo dell'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, sondaggi impietosi, elettori sconcertati per l'appoggio al governo. Le prossime amministrative rischiano di dare il colpo di grazia alla casa del centrodestra, tanto che Maurizio Belpietro scrive nella fine del suo editoriale a terza pagina: cosa vuol fare Berlusconi? Ritirarsi a vita privata, lasciare ad altri il compito di ricostruire il centrodestra? Se così fosse, potrebbe farlo ora, abbandonando il timone. Il sospetto è che Berlusconi abbia in serbo altro, forse una sorpresa. C'è chi ipotizza un'alleanza con Casini, chi invece pensa che il futuro sia uno dei ministri che oggi fanno parte del governo tecnico. In ogni caso, non ci resta che lanciare l'SOS. Silvio, risali a bordo, cazzo! Ecco qui, ovviamente, l'invito riecheggia dalle parole del comandante De Falco a Schettino. Belpietro le fa sue. Stefano Folli in prima pagina, scusate, non in prima pagina, nel suo consueto punto, a pagina 7 del Sole 24 Ore, l'analisi politica invece fa un'analisi più approfondita e scrive: una cosa è chiara, Berlusconi oggi non ha voglia o convenienza a staccare la spina al governo Monti. Il Berlusconi di 10 anni fa forse l'avrebbe fatto, ma oggi l'uomo è stanco, misura i passi, vola basso, ha rinunciato alle iniziative dirompenti di un tempo, vuole ancora contare sulla scena, ma per riuscirci sa di dover interpretare un ruolo costruttivo. Oggi Berlusconi conta perché lascia a Monti tempo e spazio per governare il paese. Non è generosità, ma è un calcolo di interesse. Se i tecnici devono cadere, che sia per le contraddizioni della sinistra e non per le convulsioni della destra. E poi invece Folli, riguardo alla Lega, dice: questo andazzo, che ha fatto saltare i nervi a Bossi, mezza calzetta, le minacce, in realtà tradiscono l'affanno e la debolezza politica della Lega. È vero che i sondaggi indicano il carroccio tra il 9 e il 10% dei suffragi su scala nazionale, tuttavia sono voti che rischiano di pesare sempre meno a Roma, specie se Monti si consoliderà e il suo governo otterrà qualche buon risultato. E dunque, dice Folli, quelli di Bossi sono anche insulti politici perché teme di perdere consenso. E intanto la casta, notizie dalla casta. E allora vi segnalo che Sergio Rizzo fa un'intera pagina su Regioni, la giungla dei privilegi in Sicilia e Sardegna, gli stipendi record, tutta un'analisi delle cifre dei parlamentini regionali a pagina 11 del Corriere della Sera. E la verità, dice, scrive Rizzo, è che in Italia le uniche gabbie salariali esistenti ce le hanno i politici, però è il contrario. Ha senso che un consigliere regionale molisano, dove la vita costa il 32,8% in meno in tasche ogni mese tra indennità e rimborsi vari, 10.125 euro netti contro gli 8.639 del suo collega della Liguria? Chi ha tagliato di più tra i governatori? Il taglio più consistente, scrive Rizzo, dati alla mano, è dell'Abruzzo. Roberto Chiodi oggi guadagna 8.450 euro netti, sono 5.394 in meno rispetto a quello di Ottaviano Del Turco, il suo predecessore. Il secondo ad aver tagliato di più è la Puglia. Al presidente Vendola toccano 14.595 euro netti, tra indennità e rimborsi ha ridimensionato il proprio assegno di 4.290 euro. A Cipicchia ne guadagnava 19.000 prima, eh? Va bene tagliare, però si partiva da una bella cifra. Al terzo posto dei tagli il Veneto, con Luca Zaia, che ha una busta paga più leggera rispetto al predecessore Galan, di 2.724 euro. Però ragazzi, siamo sempre a stipendi alti e certo nessuno raggiunge il presidente della provincia di Bolzano, che ancora viene ricordato con i suoi 25.620 euro tra stipendio e rimborsi. Gli toccano ogni santo mese sulla faccia della terra 25.620 euro. Come è sempre detto, più volte è stato detto, guadagna più il presidente della provincia di Bolzano, che lavora, e questo ve lo posso assicurare, è vero. Luis Nurwalder è in ufficio alle 6 del mattino, arriva poco prima di me, io alle 6.10, alle 6 lui, ma lui sta fino a mezzanotte, ma questo ve lo posso assicurare. Beh, accidenti, però, 25.620 euro. Il presidente americano Obama guadagna 2.600 euro in meno di Nurwalder. Il Fatto Quotidiano, pagina 5. Un viaggio gratis è per sempre. Siamo sempre nel mondo della casta, tanto che oggi titola il Fatto Casta Crociere. Beh, non male questa. 17 milioni. Sapete cos'è 17 milioni? È quello che spendiamo, la Camera spende, per i trasporti a sbafo, così titola il Fatto, per tutti i deputati, anche gli ex deputati. Hanno trasporti gratis. I deputati, tutti i trasporti gratis. Aerei, navi, treni. E dal bilancio della Camera, Edoardo Di Blasi del Fatto Quotidiano fa sapere che spendiamo in tutto 17 milioni di euro l'anno. La Camera e il Parlamento spendono, e quindi soldi nostri, soldi pubblici, 17 milioni di euro per fare viaggiare i parlamentari. Costano molto, soprattutto quelli che sono stati eletti all'estero, anche perché prima della stretta andavano spesso in business class per fare ovviamente i tragitti molto molto lunghi. E anche Repubblica fa una pagina sulla casta, pagina 13, arriva settimana prossima dei tagli. Il taglio, l'abbiamo detto ieri, verranno tagliate le indennità aggiuntive di 200 onorevoli VIP, quelli che hanno anche, oltre allo stipendio base, delle indennità aggiuntive perché, che ne so, presiedono una commissione o presiedono la Camera, il Senato. Si vuol tagliare del 15% queste indennità aggiuntive. Per esempio, il presidente della Camera Fini, oltre allo stipendio, ha 4.000 euro in più di indennità di carica. Si vuol tagliare del 15%, dunque, cos'è, 600 euro, questi 4.000 euro. Poco ancora, poco, però dai, forza, ce la facciamo con queste sforbiciatine qua e là. Se volete, trovate ancora tanti articoli che riecheggiano un'inchiesta di ieri del Secolo XIX sulla vicenda che ha portato al conferimento della cattedra da ordinario al viceministro Martone, quello che ha definito sfigati i non laureati entro i 28 anni. Tra l'altro, visto che è entrato Dario Ceccarelli dalla redazione, lui si è laureato, credo, entro i 28 anni, e dunque siamo io, lui, non sfigati, e Peter Bescapè rimane lo sfigato. Sempre, siamo sempre comunque 2 su 3 non sfigati secondo i parametri scientifici del viceministro Martone. La vera storia del viceministro sfigato, questo è il titolo di Libero a pagina 7, mentre cattedra poco sfigata, pagina 8 del Fatto Quotidiano, è tutta la vicenda che riguarda il suo concorso, il concorso da ordinario. Di cronaca trovate molto della retata sui Notav, una retata nel mucchio, così titola in maniera molto accusatoria il Manifesto a pagina 6, con Mauro Ravarino che racconta, insomma, di una retata nella quale si è voluto colpire il movimento. Quello che colpisce è il profilo di alcune persone arrestate. Una su tutti è il profilo di Maurizio Ferrari. Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera lo racconta, pagina 18, Maurizio Ferrari, un ex brigatista. Quando Giancarlo Caselli lo ha arrestato, ha avuto un moto di incredulità, non può essere lui. Poi ha controllato e quel signore della corporatura magra, di altezza media, carnagione chiara, età verosimilmente avanzata, ripreso il 3 luglio 2011, mentre scaglia con violenza quattro sassi di grosse dimensioni agli agenti di polizia, è proprio lui, Paolo Maurizio Ferrari, nato nel 45, la stessa persona che Caselli aveva fatto arrestare 38 anni fa. Un giovane giudice istruttore torinese all'epoca, Caselli, alle prese con le prime azioni di un gruppo che si firmava Brigate Rosse, e fu arrestato Ferrari, che dichiarò: «Sono un militante comunista cresciuto nelle lotte operaie del 69. Da sempre le galere sono terreno rivoluzionario e non mancherò di essere al mio posto nella lotta». Si è fatto 30 anni di carcere senza avere mai sparato un solo colpo di pistola, Ferrari, perché in carcere ha accumulato altre pene: istigazione a delinquere, oltraggio, violenza, minaccia, truffa, danneggiamento, detenzione illegale di armi e munizioni, resistenza, tutti i reati commessi dietro le sbarre, dove ha trascorso 30 anni senza mai chiedere un permesso, mai un giorno di sconto, mai aver mostrato alcun tipo di pentimento o ravvedimento. Ho cercato di lottare come meglio di me hanno fatto milioni di proletari ieri, oggi e faranno domani. Questa è la sua unica dichiarazione in carcere, ed è stato riarrestato per i no TAV. Benissimo, è il giornale radio.